Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti da Anna Marino a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Oggi ci occupiamo di ecologia antispreco, quella che nasce in imprese che esistono già e che diventano rivoluzionarie grazie a idee anticrisi che difendono l'ambiente e che fanno fatturato. Produrre biodiesel con gli scarti delle conce, come a dire, non si butta via nulla, anzi. Da 60 anni il gruppo Dani, www.gruppodani.it, fornisce pelli di qualità all'industria dell'arredamento, dell'automotive, delle calzature e della pelletteria. La svolta green degli ultimi anni li ha portati a rendere il materiale già naturale più ecocompatibile. E poi, grazie all'Università di Venezia e ai dipartimenti di chimica delle Università di Napoli e Padova, arriva una marcia in più nella produzione, che continua così a fiutare nuovi mercati. Dal distretto della pelle di Arzignano in Veneto, Giancarlo Dani indica la strada per battere la crisi con idee verdi. Lavorando un prodotto organico che è la pelle, ha parecchie parti che sono definite del cosiddetto di scarto o di materia prima e seconda. Noi utilizziamo la parte superficiale dove c'è il pelo, diciamo, che è la parte nobile, e dall'altra parte ci sono, dal momento che vengono macellate, ci sono scarti di grasso, di carnici o di parte di pelle un po' poco nobile che viene poi messa negli scarti. Questi scarti fino a ieri potevano avere una destinazione d'uso semplice, invece negli ultimi anni è stato appunto spinto da ricercatori universitari il fatto che da questi prodotti si possa ricavare o il biogas, mettendoli su questi grandi impianti di trattamento, o addirittura di colatura, ricavando l'olio che diventa un prodotto nobile, così definito appunto un biodiesel, cioè un prodotto naturale derivato dal grasso animale, e che fa funzionare degli impianti di, diciamo, motori marini che producono energia elettrica e altro, anche l'acqua calda, per cui le nostre aziende che hanno un uso molto forte di energia elettrica e di acqua calda, fare questa cogenerazione per noi è stato indubbiamente un punto d'arrivo. Come siete venuti in contatto con questa rivoluzione? Qualcuno vi ha informato? Vi siete informati voi? Questa è una rivoluzione che è stata studiata e portata avanti anche dal settore della macellazione, perché diciamo che loro hanno ancora più scarti di noi, di queste parti organiche degli animali, per cui diciamo che è uno studio che è andato avanti un po' in tutto il mondo, ma generato appunto da chi aveva quantità fortemente industriali di prodotti organici. E a voi come è venuto in mente? A noi che indubbiamente abbiamo un problema, chiamiamolo così, che l'inquinamento del settore conciario deriva appunto da questo sgrassaggio delle pelli che poi va nei liquami, e poi da questi liquami depurati provocano dei fanghi. Questi fanghi, che fino a ieri erano destinati a essere messi in discarica, con le nuove disposizioni anche della CE è ormai fatto divieto di collocare dei fanghi ricchi, diciamo, di materiale organico, è vietato deporli su discariche, ma dobbiamo tentare di tutto per trovarci una soluzione che sia consona al recupero di questa ricchezza, diciamo, ecco. Questo scarto che diventa invece una ricchezza, è stato lei, andando, viaggiando all'estero, a trovare questo riutilizzo, oppure era nelle cose, era naturale? No, viaggiando e visitando fornitori abbiamo avuto certe informazioni, pertanto sì, non è che ce la siamo inventata noi, ecco, è un qualcosa che sta proliferando in tutti i campi. Ecco, quindi praticamente nel vostro caso, come in tanti casi di economia tradizionale, quello che può aiutare è il fatto di mantenersi sempre informati sulle novità del settore, e questo che ha aiutato anche voi. Beh, direi che in questi anni di crisi dobbiamo scavare all'interno delle nostre aziende e cercare di togliere tutte quelle che possono essere inefficienze o cercare di migliorare o di far sì che certi usi e costumi di smaltire i prodotti, come addirittura noi lo vediamo anche nei rifiuti civili, no? C'è questa ricerca sempre più spinta nel suddividere gli scarti, perché è un obbligo ormai morale, oltre che doveroso anche sotto profilo dei costi, trovare una destinazione d'uso più consona possibile ad ogni singolo sottoprodotto o scarto che noi generiamo. Per dare anche l'esempio ad altre realtà, ovviamente c'è da segnalare che voi vi siete avvalsi di università, no? Che vi hanno dato, sono dei centri, diciamo, di ricerca che continuano a lavorare insieme a voi per avanzare in questa ricerca. Sì, è chiaro che noi, il nostro business è produrre le pelli e ci siamo fatti aiutare da questa, da quello che è un patrimonio che anche l'Italia ha, cioè le università e le varie facoltà specialistiche. Quali facoltà? C'è la facoltà di ingegneria chimica di Padova, poi abbiamo una facoltà sempre di ingegneria chimica di Napoli, oltre poi altre facoltà di ricerca su prodotti chimici specifici. Ecco, comunque noi ci collochiamo più sul settore chimico, come elemento, no? Ecco, il distretto in cui vi trovate è venuto alla ribalta un po' per presunte evasioni, oltre che per una crisi di settore. Lei pensa che aver rovesciato, diciamo, questo concetto e questo, soprattutto questa visione del distretto, la faccia sentire un po' un eroe e comunque le dia appunto una spinta per il futuro? Sì, io direi che questa è una macchia che poi non è solo del nostro settore, ma purtroppo dico di nuovo, è abbastanza diffusa. Io non voglio apparire un eroe, ma appartengo a questo distretto, amo questo distretto, amo il mio prodotto, il mio mestiere, e vorrei fare di tutto per cercare di dare un'immagine che noi non siamo, come dire, degli evasori, ma siamo indubbiamente un'eccellenza italiana. Produrre oggi ad Arzignano più o meno il 40-45% del pellame prodotto nell'Europa, direi che questo dimostra che siamo una realtà. Occupiamo circa 10.000 dipendenti, c'è un indotto che è enorme. Penso che stiamo soffrendo meno perché abbiamo anche un prodotto, come dire, d'elite naturale che dovrebbe avere vita lunga, per cui è nell'animo mio di mettercela tutta, di far vedere che siamo indubbiamente in linea con quelli che sono i tempi, cioè il rispetto dell'ambiente, il rispetto poi delle leggi. Con un secolo di tradizione alle spalle, l'Andrea Gallo di Genova, produttrice del marchio Use, www.use.it, ha fatto un altro passo avanti rispetto alla lunga esperienza del settore dei detersivi liquidi, biodegradabili e a basso impatto ambientale. Grazie all'ultima generazione di famiglia ha immesso sul mercato un detersivo per pavimenti in bustine idrosolubili. Si chiama Alcubo, www.alcubo.it, ovvero compri solo la parte lavante del detersivo e l'acqua la giungi a casa, riutilizzando un vecchio flacone di plastica. Risultato rispetto dell'ambiente, consumando meno plastica, meno 93%, meno logistica e trasporti, meno 82% e di conseguenza meno inquinamento. Alcubo ha vinto anche il premio Non Sprecare 2011 allo scorso Festival della Scienza di Genova, che ha ritirato l'inventore di famiglia dell'idea anticrisi, Francesco Gallo. L'idea, diciamo, è quella di creare un detersivo con un basso impatto ambientale dal punto di vista della plastica, dei trasporti. L'idea mi è venuta circa 4 anni fa, quando come consumatore già da tempo avevo fatto la scelta di non acquistare le bottiglie d'acqua e quindi di bere l'acqua del rubinetto di casa. A quel punto lì ho detto: ma come imprenditore posso fare qualche cosa per ridurre in modo più significativo l'impatto ambientale nel mercato dei detersivi? E la risposta è stata automatica, è stata quella di togliere l'acqua del detersivo. Quindi abbiamo confezionato solo la parte lavante del detersivo, in questo caso siamo partiti da un detersivo per pavimenti perché sono quelli che di base hanno almeno il 90% d'acqua. Quando uno va al supermercato e compra un flacone di detersivo, compra il 90% d'acqua e solo una piccola parte di potere lavante. Quindi abbiamo fatto questa scatoletta che pesa 64 grammi e contiene la materia attiva di un detersivo concentrato. È un'idea che comunque si innesta in una storia di un'azienda che parte da tanto tempo fa, insomma. Sì, esatto. L'azienda l'ha fondata il mio bisnonno nel 1892 qui a Genova, prima come stoccaggio di prodotti chimici, oli per fare detersivi, e poi è iniziato la produzione di detersivi dopo la Seconda Guerra Mondiale, e sempre detersivi concentrati. Adesso che in Europa è qualche anno che questi prodotti anidri hanno preso campo, abbiamo cercato di anche noi di fare questo prodotto innovativo e ridurre ancora di più l'impatto dei nostri prodotti, perché bisogna pensare che le aziende che producono detersivi nella maggior parte dei casi comprano i flaconi vuoti presso un'altra azienda, quindi ci sono sulle strade, sulle nostre strade, camion che trasportano flaconi vuoti, poi i flaconi vengono riempiti con il materia attiva lavante e acqua, quindi altri camion che trasportano acqua. se noi trasportassimo solo la materia attiva, toglieremmo dalle strade una quantità di camion impressionante. Come è nata la vostra idea? Chi vi ha aiutato e soprattutto come vi siete aiutati? Ci siamo aiutati, nel senso che internamente abbiamo trovato le disponibilità finanziarie e le capacità per riuscire a produrre questa confezione particolare, idonea un po' per tutta la catena su cui va a impattare, perché è una confezione piccola, quindi il buyer della grande distribuzione ha il valore di un litro di detersivo in uno spazio limitatissimo, quindi il valore lineare dello scaffale viene mantenuto e anzi viene potenziato. Quindi meno spazio anche per stipare. Ecco, ma voi in azienda quando ne avete parlato? Nel senso, come ne avete parlato e qual è stata, diciamo, l'aiuto reciproco che avete messo in pratica proprio per fare le cose in casa, nella casa vostra? Con il nostro direttore commerciale abbiamo iniziato a parlarne ormai 3 anni fa, e vedendo poi anche, avendo riscontri anche dalla nostra rete commerciale, parlando con i buyer e con i consumatori finali, si vedeva che c'era un interesse, e quindi poi abbiamo elaborato internamente con riunioni, brainstorming, per cercare di trovare la soluzione migliore per proporre questo prodotto. Una cosa particolare è che all'interno di questo cubetto ci sono 8 bustine idrosolubili e un'etichetta, quindi la persona non è che deve comprare un flaccone vuoto particolare, finisce di utilizzare il suo vecchio detersivo per pavimenti, se ha un flaccone da mezzo litro non fa altro che mettere dentro 4 bustine, mettere l'acqua e applicare l'etichetta che trova nella nostra confezione su questo flaccone, e ha un detersivo per pavimenti concentrato. Ecco, quali sono allora stati gli ostacoli e quali sono gli ostacoli per le idee e le innovazioni fatte in casa? Diciamo, l'ostacolo principale è che all'inizio bisogna fare comunque un minimo investimento, perché per mettere insieme un prodotto di questo tipo bisogna partire da investimenti che è una piccola azienda, che per una piccola azienda sono importanti. Voi avete anche avuto l'esperienza di partecipare al Festival della Scienza di Genova, dove siete stati premiati con il premio Non Sprecare 2011. È un'esperienza valida per un'impresa presentarsi anche a tutti questi festival? Sicuramente è valida, perché in questo momento la cosa principale è spiegare al consumatore la validità di questi prodotti. Diciamo, parlo del mio prodotto, ma anche altri prodotti innovativi che riducono il nostro impatto ambientale, perché mentre tanti anni fa l'umanità per vivere meglio ha dovuto inquinare, sporcare questo bel pianeta, attualmente l'uomo, diciamo, ha delle tecnologie e tutti gli strumenti per riuscire a vivere bene senza distruggere il pianeta. Quindi bisogna che ogni singolo consumatore applichi quotidianamente quelle piccole scelte che sommate portano a preservare l'ambiente. Avete ascoltato Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.